4. Dubbi e difficoltà. Possa io finire su una riva spoglia dove seguire solo le orme di un mesto naufragio, pur tra i ruggiti del mare. Se trovo te, più dolce e quiete, non dovrò implorare. Abington. Se n'era andato. La casa venne chiusa per la notte, niente più cieli azzurri o tinte ambrate e cremisi. Margaret salì di sopra a vestirsi per il tè, servito prima del solito, e trovò Dixon molto irritata a causa di quella visita che aveva naturalmente interrotto una giornata particolarmente piena. Lo si vedeva dal vigore con cui spazzolava i capelli di Margaret, fingendo di avere una gran fretta di raggiungere la signora Hale. Eppure, alla fine, Margaret dovette aspettare a lungo in salotto prima che sua madre scendesse. Sedeva da sola accanto al fuoco, con le candele spente sul tavolo dietro di lei, ripensando a quella giornata, alla bella camminata, quanto fosse stato bello disegnare, alla cena piacevole e allegra e alla sgradevole e infelice passeggiata in giardino. Com'erano diversi gli uomini dalle donne. Eccola qui, turbata e afflitta, poiché il suo istinto le aveva impedito qualunque cosa tranne un rifiuto, mentre lui, pochi minuti dopo aver visto respinta quella che doveva essere la proposta più profonda e sacra della sua vita, riusciva a parlare come se le cause legali, il successo e quanto di superficiale ne consegue, per esempio una bella casa, una compagnia divertente e brillante, fossero gli unici oggetti dichiarati dei suoi desideri. Santo cielo! Quanto avrebbe potuto amarlo se solo fosse stato diverso. E dopo un'attenta riflessione sentì che quella diversità era profonda, davvero profonda. Poi le venne in mente che dopo tutto la sua superficialità poteva forse essere una maschera, nel tentativo di coprire l'amarezza della delusione che se fosse stata lei ad amare e essere respinta le sarebbe stata impressa per sempre nel cuore. Sua madre entrò nella stanza prima che questo turbine di pensieri venisse in qualche modo riportato all'ordine. Margaret fu costretta a sbarazzarsi dei ricordi di quello che era stato fatto e detto quel giorno e ad ascoltare con partecipazione di Dixon che si era lamentata per l'ennesima bruciatura sul panno da stiro e di Susan Lightfoot che era stata vista con un cappellino di fiori finti, dimostrando in tal modo di avere un carattere vanitoso e frivolo. Il signor Hale, silenziosa e assente, sorseggiava il suo tè. Margaret si teneva le sue reazioni per sé, si domandava come facessero suo padre e sua madre a non ricordare l'ospite di quel giorno e essere così indifferenti, tanto da non nominarlo mai. Dimenticava che la proposta non era stata fatta a loro. Dopo il tè, il signor Hale si alzò e si appoggiò con il gomito sulla mensola del caminetto, reggendosi il capo con la mano, meditando e facendo lunghi sospiri di tanto in tanto. La signora Hale uscì per consultarsi con Dixon sul vestiario invernale da dare ai poveri. Margaret preparava la lana per il lavoro a maglia della madre, scacciando il pensiero della lunga serata e desiderando che arrivasse l'ora di andare a letto per poter ripensare agli avvenimenti del giorno. Margaret, disse finalmente il signor Hale quasi con un'angoscia improvvisa che la fece trasalire. È molto urgente quel lavoro a maglia? Voglio dire, puoi interrompere e venire nel mio studio, voglio parlarti di una cosa molto importante per tutti noi. Molto importante per tutti noi. Non c'era stata l'occasione di una conversazione privata tra il signor Lennox e suo padre dopo il suo rifiuto. Altrimenti quella sarebbe certamente stata una questione molto importante. In primo luogo Margaret si sentiva in colpa e si vergognava di essere cresciuta così tanto da essere ormai considerata una donna da sposare. E in secondo luogo non sapeva se il padre potesse dispiacersi perché aveva deciso di non accettare la proposta del signor Lennox senza consultarlo. Ma capì subito che una cosa improvvisa e appena successa non poteva aver scatenato considerazioni serie di cui suo padre desiderasse parlarle. La fece sedere accanto a sé, attizzò il fuoco, spense le candele, sospirò una o due volte prima di decidersi a parlare e alla fine faticosamente disse: Margaret, intendo lasciare Helston. Lasciare Helston, papà? Perché mai? Per un minuto o due il signor Hale non rispose. Giocava con alcune carte sul tavolo con fare nervoso e imbarazzato, aprendo più volte la bocca per parlare, ma richiudendola senza il coraggio di dire nulla. Margaret non riusciva a sopportare la vista di quella tensione che per il padre era ben più penosa che per lei. Ma perché, papà caro, ti prego, dimmelo. Improvvisamente lui alzò lo sguardo e poi parlò lentamente, imponendosi di essere calmo. Perché non posso più essere un ministro della Chiesa d'Inghilterra. Margaret aveva immaginato niente di meno che al padre fosse finalmente toccata quella promozione a cui la madre teneva così tanto, cosa che lo avrebbe costretto a lasciare la bella e amata Helston e forse lo avrebbe obbligato ad andare a vivere in uno di quei quartieri nobili e silenziosi che Margaret aveva visto qualche volta nella città con la cattedrale. Erano luoghi maestosi e solenni, ma se per andarci era necessario lasciare per sempre la casa di Helston, triste, lungo e persistente sarebbe stato il dolore. Nulla in confronto al duro colpo per le ultime parole del signor Hale. Che cosa voleva dire? Questo essere misterioso rendeva tutto più difficile. La penosa sofferenza sul suo volto, quasi a implorare la sua bambina di essere indulgente e benevola nel giudicarlo, le provocò un improvviso malessere. Che fosse forse stato coinvolto in qualcosa che aveva fatto Frederick? Frederick era un fuorilegge. Forse suo padre, spinto dall'amore paterno, era stato suo complice in qualcosa. Oh, di cosa si tratta? Parla, papà, raccontami tutto, perché? Perché non puoi essere più un pastore? Certo, se il vescovo fosse venuto a sapere quello che sappiamo noi di Frederick e della dura, ingiusta. No, non si tratta di Frederick, il vescovo non avrebbe nulla a che fare con quella faccenda. Riguarda soltanto me, Margaret. Ti racconterò tutto. Questa volta risponderò a tutte le domande, ma dopo stasera non ne parleremo più. Sono in grado di affrontare le conseguenze dei dubbi che mi tormentano, ma parlare della causa di tutta questa sofferenza va oltre le mie forze. Dubbi, papà? Dubbi riguardo alla religione? Chiese Margaret più sconvolta che mai. No, non dubbi sulla religione. Quella non è stata scalfita. Fece una pausa. Margaret sospirò come trovandosi sull'orlo di un nuovo orrore. Lui ricominciò, parlava velocemente, come per portare a termine un compito prestabilito. Se te lo raccontassi non riusciresti a capire fino in fondo la mia angoscia negli ultimi anni di sapere se fosse giusto continuare a tenere la mia parrocchia, i miei sforzi nel far appello all'autorità della Chiesa per soffocare i dubbi che mi bruciavano dentro. Oh, Margaret, quanto amo la Santa Chiesa dalla quale dovrò essere escluso. Per qualche momento non poté continuare. Margaret non sapeva cosa dire, le sembrava tutto un terribile mistero, come se suo padre stesse per convertirsi a Maometto. Leggevo oggi dei 2000 che vennero espulsi dalle loro chiese, continuò il signor Hale con un sorriso stentato, e cercavo di rubare un po' del loro coraggio, ma non serve a nulla, a nulla. Non posso fare a meno di sentirla profondamente, questa angoscia. Nota numero 1. Riferimento alla grande espulsione di circa 2000 ministri seguita alla ratificazione nel 1662 da parte del re Carlo II Stuart dell'atto di uniformità promulgato dal Parlamento inglese che prescriveva la forma di culto pubblico da praticarsi nell'ambito della Chiesa d'Inghilterra, religione di Stato, secondo il formulario del libro di preghiere comune. Con questo atto si imponeva l'adozione di una versione riveduta del libro delle preghiere elisabettiano, testo principale della Chiesa anglicana, mal tollerato da puritani e calvinisti. Inoltre, l'atto obbligava ogni ministro di culto a dare il proprio consenso al libro delle preghiere e a ricevere consacrazione da parte del vescovo. Ripresa del romanzo. Ma papà, ci hai pensato bene? Mi sembra così terribile, così assurdo, disse Margaret scoppiando improvvisamente in lacrime. Le uniche solide fondamenta della sua casa e dell'opinione che aveva del suo amato padre sembravano vacillare paurosamente. Cosa poteva dire? Cosa bisognava fare? Vedendo la sua afflizione, il signor Hale si fece forza e cercò di consolarla. Soffocò i convulsi singhiozzi senza lacrime che stavano continuando a salirgli dal cuore e, andando verso la sua libreria, prese un volume che aveva letto spesso negli ultimi tempi e dal quale pensava di aver preso la forza di intraprendere il percorso che aveva ormai imboccato. «Ascolta, Margaret cara», disse, cingendole la vita con il braccio. Lei gli prese la mano tra le sue e la strinse forte, senza tuttavia riuscire a sollevare il capo. Non riusciva neppure a sentire ciò che lui leggeva, talmente forte era il suo turbamento interiore. Questo è il monologo di uno che un tempo è stato un parroco di campagna, come me. È stato scritto da un certo signor Oldfield, ministro di Kensington nel Derbyshire, 160 anni fa o più. Le sue pene sono finite, si è battuto per una buona causa. Queste ultime due frasi le pronunciò piano, come se le dicesse a se stesso, poi lesse a voce alta. Quando non puoi più continuare il tuo lavoro senza disonorare Dio, screditare la religione, sacrificare la tua integrità, ferire la tua coscienza, disturbare la tua pace e rischiare la perdita della tua salvezza, in poche parole, quando le condizioni in base alle quali devi portare avanti il tuo lavoro, sempre che tu voglia portarlo avanti, sono corrotte e non motivate dalla parola di Dio, tu dovresti, sì, tu devi senza esitazione credere che Dio saprà riportare ogni tuo silenzio, ogni tuo dubbio, la tua rinuncia e il tuo abbandono nella sua gloria, rivolgendoli verso la divulgazione del Vangelo, perché seppur Dio non si servirà di te in un modo, lo farà in un altro. Un'anima che desideri servire e onorare Dio non necessiterà mai dell'occasione per farlo, né devi tantomeno pensare, limitando così facendo il Signore di Israele, che conosca un solo modo per glorificare se stesso per mezzo di te. Puoi invece farlo sia attraverso il tuo silenzio che attraverso il tuo sermone, sia che ti faccia da parte, sia che perseveri nel tuo lavoro. Non è illudendosi di prestare il più grande servizio a Dio o di svolgere il più gravoso dovere, che il più lieve peccato verrà rimesso, sebbene quel peccato ci abbia messo in condizione o ci abbia concesso l'opportunità di compiere quel dovere. Non riceverai il benché minimo ringraziamento, anima mia. Se accusata di aver corrotto il culto di Dio, falsificando i tuoi voti, dichiarerai che è stato necessario per poter mantenere il tuo ministero. Mentre leggeva, e poi scorreva con lo sguardo la gran parte di testo che non aveva letto, acquisiva certezza e si sentiva come se anche lui potesse avere il coraggio e la determinazione di fare quello che riteneva giusto. Ma quando si fermò, udì il pianto sommesso di Margaret e il suo coraggio venne meno di fronte alla profonda percezione della sua sofferenza. «Margaret, cara», disse tirandola più vicina a sé, «pensa ai primi martiri, pensa alle migliaia che hanno sofferto». «Padre mio», disse lei, sollevando improvvisamente il viso arrossato e bagnato di lacrime, «i primi martiri hanno sofferto per la verità, mentre tu, oh, papà caro!» «Io soffro per la coscienza, figlia mia», disse, con una dignità che la sua profonda sensibilità aveva fatto vacillare appena. «Devo fare quello che mi dice la mia coscienza. Ho sopportato a lungo un rimorso che avrebbe scosso anche una mente meno pigra e vigliacca della mia». Scuoteva la testa mentre continuava. L'ardente desiderio della tua povera madre, esaudito infine nel modo beffardo con il quale troppo spesso trovano soddisfazione, peccaminosi come sono, i desideri eccessivi, ha provocato questa crisi per la quale io dovrei essere, e spero di essere, grato. Neanche un mese fa il vescovo mi ha offerto un'altra parrocchia. Se avessi accettato, avrei dovuto fare una nuova dichiarazione di conformità alla liturgia della mia istituzione. Margaret, ci ho provato, ho cercato di trovare pace semplicemente rifiutando quest'altra promozione, restandomene tranquillo qui, reprimendo la mia coscienza nello stesso modo in cui prima l'avevo forzata, che Dio mi perdoni. Si alzò e camminò su e giù per la stanza, sussurrando parole di rimorso e umiliazione, e Margaret fu grata di non udirne che poche. Alla fine disse: «Margaret, devo ripetere il vecchio triste ritornello, dobbiamo lasciare Helston». «Va bene, capisco, ma quando?» Ho scritto al vescovo, suppongo di avertelo detto, ma al momento mi dimentico tutto, disse il signor Hale, cadendo in un profondo avvilimento non appena si mise a parlare dei difficili dettagli pratici, informandolo della mia intenzione di lasciare questa canonica. È stato molto gentile, ha usato argomentazioni e rimostranze varie, tutte invano, invano. Sono le stesse a cui sono ricorso anch'io, inutilmente. Dovrò portare il mio atto di dimissioni al vescovo e aspettarlo personalmente per congedarmi. Sarà una dura prova, ma peggio, molto peggio sarà separarmi dai miei cari parrocchiani. C'è un curato nominato per leggere le orazioni, un certo signor Brown. Verrà a stare da noi domani e la prossima domenica pronuncerò il mio ultimo sermone. Era quindi così imminente, pensò Margaret. Tanto sarebbe stato lo stesso. Indugiare avrebbe soltanto reso più acuto il dolore. Era meglio rimanere stordita dall'ascolto di tutti quei piani che sembravano quasi ultimati prima ancora che lei ne avesse sentito parlare. «Che cosa dice la mamma?» chiese lei, sospirando profondamente. Fu sorpresa di vedere che il padre ricominciò a girare per la stanza prima di rispondere. Alla fine si fermò e disse: «Margaret, dopotutto sono un povero vigliacco, non sopporto di far soffrire gli altri. So molto bene che la vita matrimoniale di tua madre non è stata come lei sperava, come aveva il diritto di aspettarsi, e questo sarà un colpo così duro per lei che non ho mai avuto la forza d'animo per dirglielo. Comunque bisogna farlo subito», disse lui, guardando la figlia con aria ansiosa. L'idea che la madre non sapesse nulla la opprimeva, e poi le cose erano già andate tanto avanti. «Sì, certo che lo deve sapere», disse Margaret. «Forse, dopo tutto, potrebbe non esserne sconvolta». «Oh, sì, lo sarà. Lo sarà. Non può non esserlo». E la violenza della rivelazione tornò a colpirla mentre cercava di capire come un'altra persona avrebbe potuto reagire. «Ma dove andremo?» chiese alla fine, presa da un nuovo stupore per i progetti futuri, se di progetti il padre ne aveva davvero. «A Milton Northern», rispose senza entusiasmo, avendo percepito che nell'anima della figlia la pena era più viva che mai, sebbene fosse stata comprensiva e spinta dall'amore per lui, avesse cercato di consolarlo con il suo affetto. «Milton Northern, la città industriale nel Darkshire?» «Sì», disse lui con lo stesso tono avvilito e indifferente. «Ma perché lì? Perché lì, papà?» domandò lei. «Perché lì posso guadagnare il pane per la mia famiglia, perché non conosco nessuno lì e nessuno conosce Helston o potrà mai parlarmene». «Il pane per la tua famiglia? Pensavo che tu e la mamma aveste...» E poi si fermò, frenando il suo naturale interesse per il futuro, quando vide il crescente sconforto sul volto del padre. Tuttavia lui, sempre pronto e abile a comprenderla, lesse sul suo viso, come in uno specchio, il riflesso del proprio cupo sconforto, e si sforzò di cacciarlo via. «Ti racconterò tutto, Margaret. Aiutami soltanto a dirlo a tua madre. Penso che potrei fare qualsiasi cosa, ma non questa. L'idea di farla soffrire mi fa star male. Se racconto tutto a te, magari potresti riferirlo tu a lei, eh? Domani? Starò fuori tutto il giorno. Andrò a salutare il fattore Dobson e la povera gente di Bracy Common. Ti spiacerebbe troppo? Diglielo tu, Margaret». Eh sì, che a Margaret dispiaceva. La indisponeva più di ogni altra cosa che era costretta a fare in vita sua. Improvvisamente non riuscì a parlare. Suo padre disse: «Ti dispiace tanto, vero, Margaret?» Allora lei riprese l'autocontrollo e con un'espressione attenta e decisa sul volto dichiarò: «È una cosa dolorosa, ma va fatta, e io la farò meglio che posso. Le cose dolorose che hai da fare tu sono già tante». Il signor Hale scuoteva la testa, abbattuto, le strinse la mano in segno di gratitudine. Margaret era sul punto di scoppiare di nuovo a piangere per l'agitazione. Cercando di pensare ad altro, disse: «Adesso dimmi, papà, quali sono i nostri piani? Tu e la mamma avete del denaro? Indipendentemente dal beneficio ecclesiastico, non è così, zia Shaw? Ne ha, lo so». «Sì, dovremmo avere una rendita di circa 170 sterline all'anno. 70 sterline sono sempre andate a Frederick da quando è all'estero. Non so se gli servono tutte», proseguì con esitazione. «Suppongo che abbia una qualche retribuzione per il suo servizio nell'esercito spagnolo». Oh, Frederick non deve patire nulla, disse Margaret con fermezza. In un paese straniero trattato così ingiustamente dal proprio. Rimangono 100 sterline e non potremmo, tu, io e la mamma, vivere con 100 sterline all'anno in qualche parte dell'Inghilterra poco costosa e molto tranquilla? Oh, io penso di sì. No, disse signor Hale. Non servirebbe, devo fare qualcosa, devo tenermi occupato per allontanare i cattivi pensieri. Per di più, una parrocchia di campagna mi farebbe ricordare con dolore Helston e le mie mansioni qui, e non potrei sopportarlo, Margaret. E con 100 sterline all'anno non andremo molto lontano, dopo aver pagato le spese di casa che servono per dare a tua madre e tutte le comodità alle quali è stata abituata, com'è giusto che sia, no? Dobbiamo andare a Milton, è deciso. Mi riesce sempre meglio prendere le decisioni da solo, senza essere influenzato da coloro che amo. Disse come per scusarsi dell'aver organizzato così tante cose senza aver prima comunicato le sue intenzioni a nessuno della famiglia. Le obiezioni non le sopporto, mi fanno sentire così insicuro. Margaret decise di restare in silenzio. Dopotutto, cosa importava dove sarebbero andati in confronto a quel tremendo cambiamento? Il signor Hale continuò. Alcuni mesi fa, quando non ne potei più di tenermi dentro quei dubbi laceranti, scrissi al signor Bell. Ti ricordi del signor Bell, Margaret? No, non l'ho mai visto, credo, ma so chi è. È il padrino di Frederick, il tuo vecchio tutore a Oxford. Parli di lui? Sì, è professore all'università di Plymouth. Credo sia nato a Milton Northern. Ad ogni modo ha delle proprietà lì, il cui valore è aumentato moltissimo da quando Milton è diventata una così grande città industriale. Beh, avevo motivo di sospettare, di immaginare. Ad ogni modo preferisco non parlarne, ma ero certo della comprensione del signor Bell. Non so perché mi abbia dato tanta forza. Ha vissuto tutta la vita serenamente nella sua università, eppure non poteva essere più comprensivo ed è grazie a lui che andremo a Milton. Perché? Chiese Margaret. Perché lì ha degli affittuari e case e fabbriche, quindi anche se non gli piace il posto, troppo frenetico per uno con le sue abitudini, è costretto a tenere dei contatti e dice che c'è una buona occasione come precettore. Un precettore? Disse Margaret con sguardo sprezzante. Che cosa se ne fanno gli industriali, dei classici o della letteratura o della preparazione di un gentiluomo? Oh, disse suo padre, alcuni di loro sembrano essere davvero brave persone, consapevoli delle proprie carenze, il che è già tanto rispetto a molti a Oxford. Alcuni sono determinati a imparare, sebbene abbiano raggiunto la maturità, altri vogliono che i propri figli ricevano un'istruzione migliore della loro. Ad ogni modo, come ti ho accennato, c'è un'opportunità come precettore. Il signor Bell mi ha raccomandato a un certo signor Thornton, uno dei suoi inquilini. È un uomo molto intelligente a giudicare dalle sue lettere, e a Milton, Margaret, la mia vita, se non felice, sarà impegnata, e le persone, i luoghi così diversi che nulla potrà ricordarmi di Helston. Eccolo il vero motivo. Margaret lo capiva, poiché provava la stessa cosa. Sarebbe stato diverso, desolante com'era, tutto quello che aveva sentito sul nord dell'Inghilterra, gli industriali, la gente, la campagna selvaggia e squallida, quasi la ripugnava. Ecco l'unico vantaggio. Sarebbe stato diverso da Helston e non avrebbe mai potuto ricordare loro quel luogo che tanto amavano. Quando partiremo? Chiese Margaret dopo un breve silenzio. Oh, non lo so di preciso, volevo parlarne con te. Sai, tua madre non ne sa ancora niente, ma penso tra un paio di settimane. Una volta spedita la mia richiesta di dimissioni, non avrò alcun diritto di restare qui. Margaret era sbalordita. Tra 2 settimane? No, no, non tra 2 settimane esatte, non è ancora stato deciso nulla, disse il padre, esitando con preoccupazione, quando si accorse che un velo di dolore era sceso sugli occhi di Margaret e che il suo volto impallidiva. Ma lei si riebbe subito. Sì, papà, è meglio essere decisi e fissare una data subito, come dici tu, che la mamma sia l'unica a non saperne nulla. Ecco qual è la grande difficoltà. Povera Maria. Replicò il signor Hale teneramente. Povera. Povera Maria, oh, se non fossi sposato, se fossi solo al mondo, come sarebbe facile. E infatti, Margaret, non ho il coraggio di dirglielo. No, disse Margaret rattristata, lo farò io. Dammi tempo fino a domani sera per trovare il momento giusto. Oh, papà, gridò supplicandolo con inaspettato trasporto. Parla, dimmi che è un incubo, un sogno orribile, non la realtà. Non puoi dire che vuoi davvero lasciare la chiesa, abbandonare Helston, separarti per sempre da me, dalla mamma, costretto a seguire illusioni, tentazioni. Non lo dici davvero. Il signor Hale rimase rigido mentre lei parlava. Poi la guardò dritto negli occhi e parlò lentamente, con voce roca, calibrando le parole. Dico sul serio, Margaret. Non ingannarti al punto di mettere in dubbio la verità delle mie parole e della mia ferma intenzione e determinazione. Detto ciò, la guardò, come di consueto, calmo e impassibile per qualche istante. Lei ricambiò lo sguardo con occhi imploranti prima di convincersi che la decisione era irrevocabile. Dopodiché si alzò e andò verso la porta, senza proferire parola né guardarlo. Appena le sue dita toccarono la maniglia, lui la chiamò. Era in piedi vicino al caminetto, contratto e piegato in avanti, ma appena lei gli fu vicino, si alzò in tutta la sua altezza e, posandole le mani sul capo, enunciò in modo solenne: «La benedizione di Dio sia con te, figlia mia, e possa lui riportarti alla sua chiesa», rispose lei con tutto il cuore. Un attimo dopo temette che la sua risposta alla benedizione potesse essere stata insolente e fuori luogo, che potesse averlo ferito perché detta da sua figlia, e gli gettò le braccia al collo. Lui l'abbracciò per qualche minuto, lei lo sentì mormorare tra sé e sé: «Martiri e confessori hanno dovuto sopportare un dolore ancora più grande e io non mi tirerò indietro». La voce della signora Hale, che chiamava la figlia, li fece trasalire. Si separarono pienamente consapevoli di tutto quello che li aspettava. Il signor Hale si affrettò a dire: «Vai, Margaret, vai. Domani starò fuori tutto il giorno. Prima di sera lo avrai detto a tua madre». «Sì», rispose lei e tornò in salotto in un vertiginoso stato di confusione.